questo set studio. Volevamo dirvi che vi vogliamo bene, bastardi! Ti prego Pippo, manda la scenetta, che fai ti schiaccia sta negretta, tutto in diretta. Maestro quanto è bello, puzza come un uomo morto, Mazzoli culo rotto, testimonial della Giotto. Winterstone al Dona con un'erba supersonica, Alba fai concerti metro con la fisarmonica, Ivo bomba la sua donna e non da manda macio, e Paolo verrà ucciso dalle lobby del tabacco. Per me c'è solo un programma, sai, lo chiamano lo zoo, ed è il migliore di sempre, e gli altri li dai assai, perché solo lo zoo fa impazzire la gente, se quanto mi piglia sale come una pastiglia, e chi lo ascolta si affiglia fra lo zoo e la